fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Oh, eccoci qui, bentornati in diretta su Resto Radio Convento. Salutiamo anche il maestro Vessicchio che ci sta dando il tempo di questa intervista e ci sta, come dire, guidando come di consuetudine. Allora, come sempre ci piace dire, non siamo soli, c'è venuta a trovare questa bella ragazza che stiamo anche inquadrando con le nostre webcam e ovviamente insieme alle sue amiche che sono venute a trovarci per cosa? Dici un po'. Per un addio annubilato. Di chi? Mio. Tu di te? Sì. Non tu, tu di lui, di lei. Mio di mio. Oh, mio di mio, come i formaggini che si mangiavano da piccoli, ti piacevano? Sì. Sì, quanti ne hai mangiati? Anche un bimbo. Anche un bimbo? Sì. Cioè, che cosa c'è? Ah, ok, infatti non capivo. Nel senso, hai mangiato i formaggini? Ho mangiato i formaggini, sì, ho anche un bimbo, infatti non capivo. Sei una mamma esperta. Ti definisci esperta, come mai? Perché ha già 2 anni. Ah, ok, perché da 2 anni sei. Ma l'hai messo anche su LinkedIn? Sono esperta di 2 anni. L'hai messo anche su LinkedIn, tipo nel curriculum, no, mamma esperta? Dai. No, quello no, non si quello scrive. No. Non si scrive. Allora, come ti chiami intanto? Mi chiamo Giorgia. Giorgia, da dove vieni? Da Rovereto. Rovereto, e abbiamo capito cosa festeggi questa sera. Però voi l'avete fatto al contrario, nel senso che di solito si festeggia il matrimonio e poi si pensa ai figli, mentre voi avete invertito gli addendi. Sì. Ma il risultato non cambia. Speriamo. Speriamo. Vabbè, però vabbè, nel senso, come si chiama tra l'altro, non so, bambino, bambina? Francesco. Francesco, 2 anni, hai detto? Sì. Vuoi dirgli qualcosa? Ciao. Ciao, brava, vabbè, che forse è la parola che riesce a capire meglio di tutte. Sì. Cos'è che gli piace a Francesco, secondo te? Cosa, per cosa lo vedi incline? Lo vedo incline per i trattori. Trattori? Vabbè, è grande. Ma per guidarli, costruirli, fargli fare gli scontri. Gli scontri. Gli scontri, e beh, tipico dei bambini di 2 anni, creare danni e fare comunque tanti tanti danni, ma poi magari cambierà, farà la ballerina, magari, che ne sai. Sì, va bene tutto. Tutto. Sì, ballerina e danza classica, che ne sai. Allora, e dici anche con chi ti sposi e quando? Con Damiano. Il 15 giugno. Il 15 giugno, beh, hai già il balletto che ti porta le fedi innanzitutto. Certo. Per cosa l'hai precettato, Francesco? Per le fedi. Fedi, sì. E basta. Non celebra il matrimonio, no. Non suona. Ah, ok, no, no, solo le fedi. Solo le fedi. Beh, fedi, bello però, un bel momento. Da solo o ci arriverà col cuscinetto lui? Con mio nipote. Con tuo nipote? Che magari poi si sposeranno, no. No. No, è un po' grande, dici. Beh, ma il tuo boy va forte adesso, eh. Il tuo boy 2019 va forte. Allora, ovviamente non è sola la nostra amica, perché ne ha lei di tante di amiche qui. E ci vuoi dire chi ti sei portata questa sera? Sei portata delle mie amiche, mia sorella. Sì, che è lei, che ok. Lei. Che tra l'altro l'avremmo capito, io l'ho capito subito che era tua sorella. Siete 2 gocce d'acqua, no? Bionda mora. Identiche. Esatto. E le mie amiche, l'altra mia testimone. Ah. Mia sorella, lei. Sì. Che me l'hai detto 3 volte. Quindi sono importanti, evidentemente, no? Avendolo ripetuto. Sì. Dici anche i nomi, dai, presentacene. C'è Jessica, Serena, Ilaria, Veronica, Sara e Jessica, un'altra Jessica. Sì. Sì. E basta. Giulia. Beh, basta, è un bel nome, è originale come nome, basta. I testimoni e voi. E i miei testimoni si chiamano Giulia e Laura. Giulia e Laura, ok. Cioè, a posto? Sei contenta? Sì. Le hai dette tutte? Sono entrate tutte alla fine, perché avevamo avuto... vedi, avevamo avuto un piccolo... No, è rimasto... Dicono che è rimasto qualcuno fuori. Sì, quelle 2 che facevano ciao. Ah, ok. Oh, salutiamole anche loro. Sì, c'è Cristina e Barbara. Cristina e Barbara. Ok. Ma però io volevo capire anche un po' il tuo abbigliamento, perché è un po' misto tra sposa, infermierina, un po' di tante... ballerina. Non so se ti rendo l'idea. Sì, sì, ho capito. Diciamo che ha una maglia marchiata, però un po' tarocca, giusto? È vero. Che ha un marchio tarocco che, vabbè, non diremo qual è per non fare pubblicità e non diremo anche come è stato girato per non esatto. fare brutta pubblicità. Diciamo che sono 2 prima fidanzati, poi amici. Esatto. Che hanno avuto una crisi amorosa, ma non professionale. Giusto? Sono d'accordo. Sei d'accordo. È informata, vedi? Ti piace il gossip? Sì. Sì, cos'altro ti piace? Cantare, davvero? Ma davvero? Cioè, lei ha fatto così, come per dire, ma chi? Ma chi sei? Non t'ha mai conosciuto. Ma è vero? Oh, si sta prendendo in giro. Così, oddio. Vedi, mi dice, ma quando mai? E adesso faccio una canzone a sto punto, dai. Regalaci un momento di poesia. Con loro però. Con loro? Adesso vuoi farla con loro. Cosa vuoi fare? Loro propongono, secondo me, no? No, proponi tu. Cioè, dai, tu hai detto che ti piace cantare, sei la cantante. Sparane una, il tuo pezzo forte. Maledetta primavera. Dai, dai, accennaci maledetta primavera, vai. Dai, no. Vai, vincono loro. Tu dai là e loro ti vengono dietro. Che fretta c'era, maledetta primavera. Che fretta c'era, lo sappiamo solo io e te. Vedi, brava, brava, vedi che non è andato male. Lei si è fermata a maledetta primavera, nel senso che la, cioè, ha dato tutto in quelle quattro parole lì. Che fretta c'era, maledetta primavera, la sua interpretazione è finita lì. Infatti, sì, infatti eri pronta, eri prontissima. Però mi piaceva immaginarti su un palco importante, tipo X Factor o il tuo provino. Dico, ok, hai due minuti per fare la tua esibizione, vai, cosa porti? Maledetta primavera, brava, ti ascoltiamo. Che fretta, maledetta primavera. E tu hai finito, basta, è finito così. E te, guarda, puoi andare avanti. No, no, ma io sono a posto così, ho già dato tutto. Mi piace questa tua presa di posizione nei confronti della vita, molto... Cioè, tu arrivi dove vuoi arrivare, sei a posto così. Sì. Sì, vedi, vedi, vedi. Allora, grazie mille a lei, grazie mille a loro per essere state con noi. Ovviamente parliamo della nostra sposa e delle sue amiche. E ti auguriamo un grande in bocca al lupo per il tuo matrimonio. Sì. Ok? Grazie. E mi raccomando, le fedi che arrivino puntuali, perfette, dal tuo Franci. E istruiscilo bene, fate tante prove anche a casa, nel corridoio di casa. Sì. Così gli fai fare la camminata. Sì, sì, vedi. Col frustino. Vai, vai, Rose, vai. Scarsi i risultati. E cos'è? Ti canta tanti auguri, non avevo neanche capito per cosa servono. Stupendo, canta tanti auguri. Ma cosa hai usato al posto delle fedi? No, un cuscino, intanto senza fedi. Ah, senza fedi. Quindi già è andata male senza fedi, figuriamoci con. Ce l'hai perso. Puoi usare, sai, gli anellini delle bottigliette in plastica per fare un... un immaginario un po' più credibile. Sì. Tanti auguri. Cioè riporta il cuscino e immagino un compleanno. Beh, insomma, facciamo lì lo credere. Però sai che bello, se entra in chiesa nel silenzio totale. Tanti auguri! Sicuramente sarebbe un matrimonio da ricordare. Va bene, lo sarà di certo. Grazie ancora ragazze e buon divertimento. Ciao! Ciao.